Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buon pomeriggio, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. 16:06 minuti, 45 secondi in questo esatto istante, nuova puntata di Nessun luogo è lontano, confezionata con me da Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli, che sono appunto in redazione, Valeria Bernardi della Musica e Ritmo, anche ai temi di quest'oggi. 349-238-6666 per commentare i temi che tratteremo quest'oggi, Twitter nessunluogo24 oppure il mio account Giampaz, la pagina Facebook è nessunluogolontano-radio24. Come avete sentito anche dalla anticipazione delle 13, parliamo ancora di immigrazione, andiamo in Grecia, andiamo nella piccola isola di Kos. I suoni che arrivano da Kos sono quelli di tensione, sono quelli di rabbia, sono quelli di frustrazione, sono quelli anche di scontri tra migranti e polizia. La polizia greca non ci è andata per il sottile, anche a vedere le immagini che sono girate su YouTube e sui social. Per dirla tutta, in passato la polizia greca ha ricevuto parecchie critiche da parte di organizzazioni umanitarie per come vengono trattati i migranti non solo nelle isole ma anche in altre zone del paese, ma per completare il quadro bisogna davvero dire che questa volta l'isola di Kos si trova di fronte a un flusso di migranti che è assolutamente importante. Ricapitoliamo i numeri insieme. Nel 2015 la rotta greca è diventata la più battuta dal flusso di migranti provenienti dal Medio Oriente che passano per la Turchia. Le isole che hanno contato il maggior numero di arrivi sono Lesbo, Kos, Chios e Samos, situate a pochi chilometri dalle coste turche. Da gennaio a luglio 2015 il numero di rifugiati sbarcati sul territorio greco supera le 130.000 unità, con picchi a giugno 30.000 arrivi e luglio 50.000. Circa 1.500 al giorno, di cui il 70% proviene dalla Siria. I numeri, superiori a quelli registrati nei luoghi d'arrivo italiani, sono ancora più impressionanti in rapporto alla popolazione di queste isole. 204.000 persone in totale. Vuol dire che, nei primi 7 mesi dell'anno, a Kos, Samos, Chios e Lesbo è arrivato un numero di migranti pari al 63,7% della popolazione totale. Il 10 di agosto la Commissione europea ha approvato un piano di aiuti da 2,4 miliardi di euro per la gestione dell'emergenza rifugiati, ripartiti nell'arco di 6 anni e da dividere tra 19 paesi. Di questi soldi, 400 milioni sono destinati all'emergenza greca. Questo è quello che sta accadendo nell'isola di Greca di Kos, che sembra rispecchiare la situazione che vi abbiamo raccontato all'altra isoletta, appunto Lesbos, solo pochi giorni fa. Ennesimo fallimento della Grecia rispetto all'accoglienza, ennesimo fallimento un po' di tutti i paesi in prima linea nell'Europa, nell'incapacità di prevedere i flussi. Io la prima volta che ho lavorato sulla rotta greca era il 2009 ed ero a Samos e già il flusso allora era importante, eppure a distanza di 6 anni ancora si utilizza la parola emergenza. Com'è possibile? Giro questa domanda a Francesco Rocca, che è presidente della Croce Rossa Italiana e vicepresidente della Federazione Internazionale. Presidente Rocca, buongiorno e ben ritrovato a Nessun luogo lontano. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, Presidente Rocca, purtroppo siamo sempre a farci la stessa domanda. Com'è possibile che ci sia questa incapacità di prevedere i flussi? Devo dire, io sono molto contrario a parole come invasione, come emergenza, perché non credo che rispecchino sempre quello che accade. Però questa volta a Kos mi sembra che insomma l'afflusso sia molto molto importante. Ma sì, viene trasformato in emergenza qualcosa che poteva essere prevenuto. Guardi, non più tardi di 2 settimane fa UNHCR e Croce Rossa avevano lanciato l'allarme sui flussi dalla Turchia, che c'erano circa 150.000-200.000 persone pronte a muoversi, eppure non è stato fatto nulla. Scaricare sulla Grecia, che è un paese che sta attraversando delle difficoltà enormi, anche questo mi sembra un crimine, perché comunque è un paese che è allo sbando, ha delle difficoltà finanziarie enormi. Quindi ancora una volta, però ripetiamo la stessa frase ormai da mesi e mesi, mi sembra che ci sia un'assenza totale di quella che dovrebbe essere un'Unione Europea con una sua capacità solidale. Quindi COS soltanto fa emergere un fallimento totale di questa Unione Europea, che tale non è. Sì. Presidente, siccome poi la farò spogliare dei suoi panni di Presidente, perché forse la domanda che le farò in chiusura non è esattamente, come dire, rientrante nel suo ruolo, però è giusto puntare il dito su quello che non accade, però poi bisogna fare delle proposte concrete e su questo la solleciterò, non prima però di andare a COS, dove abbiamo appena raggiunto Giulia Curafa, che è portavoce di MSF, ed è lì e sentite come descrive la situazione. Right now the situation on the island is very dramatic. There are more than 6,000 people right now on the island, of course. Dice: la situazione è drammatica, ci sono più di 6.000 persone nell'isola che arrivano soprattutto da Siria, Afghanistan e Iraq. Fino adesso sono stati nei parchi e nelle città, ma la polizia ha deciso di mandarli via dalle strade e parchi e portarli dentro lo stadio per controllare la confusione. C'erano mamme e bambini, nessun cibo veniva fornito, solo poca acqua, più di 1.500 persone nello stadio al momento. La situazione sta diventando drammatica, ci sono persone che svengono a causa di più di 24 ore senza cibo e senza acqua. Inside the stadium to bring on the riot police to control the crowd. There's a lot of tension at the moment. Allora, questa è la drammatica fotografia che ci viene da COS. Poi cercheremo anche di capire la reazione, il comportamento delle forze di polizia, perché c'è un ascoltatore che dice: la situazione è davvero straordinaria, non credo che la polizia di un altro paese avrebbe operato meglio. Certamente non si usano gli estintori contro i migranti per gestire la confusione. C'è un altro messaggio, Max, che dice: critica la polizia greca, e loro è l'unico modo di fare, viste le pretese di chi viene qui a reclamare diritti invece di stare a casa loro per combattere per la loro causa, quale che sia. Questi purtroppo sono slogan assolutamente generalizzanti. In uno stato di diritto la polizia si comporta in un solo modo, in un modo civile, senza utilizzare la violenza se non strettamente necessario. Presidente Rocca, quanto il racconto mediatico rispecchia ciò che accade realmente? Quanto siamo responsabili noi giornalisti nell'utilizzare certi termini? E dando poi il destro a messaggi come questo che ho letto di Max, che in qualche modo giustifica e dice: ma quali critica la polizia greca, la violenza è anche ammissibile. Ma guardi, secondo me la realtà è decisamente peggiore, intesa come dramma umano che vivono le persone che stanno scappando da guerre e conflitti. Questo sicuramente è da sottolineare con chiarezza, che forse non viene raccontato abbastanza quanto sia drammatico la ragione che ha portato queste persone alla fuga. Certo, poi c'è, a mio avviso, una responsabilità dei media quando utilizzano troppo spesso questo termine invasione, clandestini, illegali, dimenticando che di illegale c'è soltanto rifiutare l'asilo a chi lo chiede, laddove poi, come sta avvenendo in Grecia, la quasi totalità delle persone che stanno arrivano dalla Siria, cioè un paese che è in pieno conflitto, e quindi c'è un'obbligazione internazionale, sarebbe illegale il contrario. Sì. Presidente Rocca, presidente di Croce Rossa Italiana, vicepresidente della Federazione Internazionale, ascolti con me ancora Giulia Curafa, portavoce di MSF, che è a COS, a cui abbiamo chiesto, visto che i video erano particolarmente forti, insomma le violenze che abbiamo visto, la reazione della polizia piuttosto importante, ricordiamo che erano anche pochi poliziotti a gestire una situazione davvero difficile, questo non c'è dubbio, però allo stesso tempo vedere usare gli estintori sui migranti non sono scene che uno Stato di diritto si dovrebbero vedere. Abbiamo chiesto a Curafa chi ha iniziato queste violenze e perché sono scaturite. E dice: immaginate di avere migliaia di persone che aspettano di ottenere i documenti dalla polizia, molti di loro attendono anche per più di 15 giorni, non hanno un posto dove stare, devono rimanere nelle strade senza cibo e senza acqua. La tensione è palpabile. E poi dobbiamo anche ricordare che il sindaco dell'isola di Kos ha chiesto ad Atene un rinforzo da parte delle forze dell'ordine che stanno arrivando in queste ore, perché si teme, parole testuali del sindaco, violenza, bagno di sangue addirittura. Certo, se il racconto mediatico a volte pecca di drammatizzazione, queste dichiarazioni da parte del sindaco di Kos certamente non aiutano. L'ultima domanda per il presidente Rocca, presidente di Croce Rossa Italiana, e vicepresidente della Federazione Internazionale. È chiaro, è davanti a tutti il fallimento dell'Europa nell'accoglimento. È chiaro che quando i singoli stati litigano anche su numeri esigui rispetto al numero da gestire, 24.000 rifugiati da ripartirsi su base volontaria, e ancora non si trovano accordi, è evidente che c'è qualcosa che non va. Che cosa si dovrebbe fare? Allora, quali proposte concrete mettere in campo anche per non lasciare spazio a facili slogan e a faciloneria che non aiutano assolutamente a risolvere la questione? Guardi, nessuno ha la bacchetta magica, sicuramente comunque questi processi vanno governati e quando noi sappiamo, come si sapeva, che in Grecia il flusso sarebbe aumentato, sicuramente si poteva e si deve fare qualcosa di più, quindi questa sarebbe già stata una prima risposta per attenuare questa conflittualità sociale che si sta creando nelle isole greche. Dall'altro lato, senza apparire naif, è ovvio che questo è un sistema ed è una risposta che coinvolge l'intero sistema degli stati, non soltanto l'Europa. Allora cambiare anche delle regole. Lei sa che la Banca Mondiale, ad esempio, non può erogare prestiti se non ai paesi in via di sviluppo, e ci sono dei paesi che si trovano nella terra di mezzo, come la Giordania, il Libano, la Turchia, che in questo momento affrontano e stanno ospitando centinaia di migliaia di profughi. Sì. Sicuramente migliorare l'accoglienza, il sistema dell'accoglienza in quei paesi può aiutare a deflazionare il flusso migratorio. Questo è solo un esempio delle, sì, cose che si potrebbero fare. Sicuramente è ridicolo pensare a un intervento in Libia o campi di transito in Libia, perché in questo momento la situazione è fuori controllo. Certo. Però sicuramente questo è un flusso che non si interrompe, almeno nel breve termine, ma come politiche di ampio respiro sicuramente comincerà a cambiare le politiche finanziarie, come le dicevo prima. Questo sarebbe già un importante segnale. Sì. E le dico che questo va anche contro tendenza, perché sarebbe facile dire aiutate le organizzazioni umanitarie. No, noi diciamo aiutate quegli stati che in questo momento si trovano ad affrontare quelle crisi in linea diretta, perché se voi pensate alla Turchia, che sta ospitando 500-600 mila siriani dentro tendopoli in condizioni disperate, la Giordania che ne ha quasi 1 milione, sì, il Libano che ne ha 1,5 milioni, oltre tutti i profughi palestinesi, questi sono paesi che vanno aiutati. Sì. Facciamo finta di nulla, ma e peraltro non si sta facendo nulla, sì, per sostenerli. Sì, peraltro Presidente, io vengo proprio dal Libano, dove ho trascorso 10 giorni e ho potuto tastare con mano quello che è veramente un afflusso importante. Se proprio dobbiamo usare il termine invasione, allora lo si usi per quei paesi, come già giustamente citava, Giordania, Libano, Turchia, che veramente risentono di un flusso massiccio e importante. Forse lì si dovrebbe fare qualcosa, anche e soprattutto a livello economico. Grazie anche per questa sua concretezza. Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa Italiana, Vicepresidente della Federazione Internazionale. Buona giornata e buon lavoro, Rocca. Grazie, buon lavoro a lei. (9) 238-6666. C'è chi scrive: dalla Siria, prima del Mediterraneo, alla Grecia, c'è il Libano e la Turchia, perché non si fermano lì i profughi? Bella domanda. Beh, intanto in Libano non c'è nemmeno il riconoscimento dello status di rifugiato, e la società libanese non è che sia particolarmente morbida nei confronti dei rifugiati siriani. In altri casi, sapete, sono storie personali, sono ambizioni personali. Pensiamo a tutta la classe media, la classe intellettuale, la classe alta borghese, non per fare discorsi classisti, di gente in Siria, ingegneri, studenti, professori che vogliono, li abbiamo incontrati, che vogliono proseguire i loro studi e dicono: io voglio proseguire i miei studi in Inghilterra perché non voglio buttare via la mia vita. Certo, questo è un pezzo della storia, non tutti sono rifugiati, esistono anche i cosiddetti migranti economici, ma adesso la frontiera greca sta subendo quel tipo di impatto. E poi c'è ancora chi mi bacchetta, naturalmente, lo aspettavo: continuate pure con questo buonismo del cavolo, qui non si spartirà il benessere ma la miseria. E c'è chi prosegue il messaggio dicendo: riduciamo l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica a favore dei clandestini. Allora, io lo ricordo abbastanza spesso, la Carta di Roma ormai ha imposto che non si usa più il termine clandestino, perché non è nemmeno nella legge, cioè la legge italiana non usa più nemmeno il termine clandestino, si preferisce il termine irregolare. E per essere ancora più precisi, qua sulla frontiera greca stiamo parlando della maggior parte di migranti che sono richiedenti asilo. Poi devo anche dire, questo non è buonismo del cavolo, questo è stato di diritto ed è assolutamente un'altra cosa. c'è chi contesta l'obiettività del presidente Rocca, sulla quale francamente mi sento di spezzare non una lancia ma più di una lancia, conoscendolo da anni di persona e conoscendo non solo i suoi sforzi ma la sua integrità, per cui caro Diego, rifuggo assolutamente questa critica, anzi la respingo al mittente. E poi c'è ancora Marco da Ferrara che dice: ma com'è possibile? Capisco la Libia che è senza governo, ci andremo adesso in Libia, ma la Turchia che lascia passare i clandestini, è questo il paese che vuole entrare in Unione Europea? No, diciamo che intanto l'ingresso in Europa mi sembra rimandato a data da destinarsi. C'è un problema che è serio di fronte a questi flussi di migranti, siccome i paesi in prima linea, e ci mette dentro anche la Turchia, sanno benissimo che l'ultima destinazione non è la Turchia, non è l'Italia, non è la Francia, l'avete visto con la crisi di Ventimiglia, con quella di Calais, sanno che è il Nord Europa, è chiaro che hanno anche interessi a lasciare andare i migranti, questo è fuori discussione, è un segreto di Pulcinella. Continuate a scrivere al 349-238-6666, cambiamo pagina, vi devo dare una notizia che non avremmo voluto darvi. E purtroppo chi ci ha seguito, quando abbiamo raccontato l'apertura del canale di Suez, avevamo raccontato del rapimento e di quel video sciagurato dell'ostaggio di quel ragazzo croato che era stato rapito a circa una ventina di chilometri dal Cairo, lavorava per una società francese, da lì erano nate le speculazioni sul fatto che probabilmente ISIS, o meglio Wilayat al-Sinai, legati a ISIS, l'organizzazione che l'ha rapito, volesse colpire in qualche modo gli interessi francesi. Ebbene, pochi minuti fa è stato diffuso il video della sua decapitazione. Era Tomislav Salopek. Allora, cambiamo pagina come anticipato e andiamo in Libia. Andiamo in Libia, lo facciamo grazie a Nancy Porcia, che è giornalista freelance, che molto bene conosce il paese nordafricano perché ci lavora molto spesso e ci trascorre buona parte dell'anno, e che è di ritorno dalla Tripolitania, dove ha trascorso alcuni mesi. L'abbiamo già sentita nell'apertura, nell'anticipazione di Nessun Luogo Lontano. Perché contattiamo Nancy Porcia? Perché oltre a conoscere molto bene il paese, siccome ci sono questi trattati, ci sono questi colloqui, questi dialoghi di pace a Ginevra tra sotto l'egida dell'ONU, che dovrebbero ricomporre in qualche modo questo puzzle così frammentato, i due governi, quello di Tripoli e quello di Tobruk, il secondo riconosciuto dalla comunità internazionale, il primo no. Ebbene, Nancy Porcia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, allora la prima domanda è questa: che aria tira a Tripoli? Tu l'hai lasciata che insomma Ginevra era lì pronta ad accogliere i protagonisti, no, di questa tornata di colloqui. Qual è l'atmosfera? C'è fiducia? C'è sfiducia? Come la vedono lì? C'è un senso di malcontento diffuso e di, come dire, grande speranza riposta nel processo di dialogo nazionale a guida Nazioni Unite, nonostante ci sia grande scetticismo in merito appunto a questo processo di dialogo nazionale che si protrae da circa un anno. Dopodiché la gente, parlo della società civile, dei cittadini comuni fino ai combattenti, la gente è stanca della guerra, è stanca di combattere, anche perché questa crisi politico-militare sul territorio sta portando, attraverso un effetto domino, ad un impoverimento del paese e ad un abbassamento drastico dello stile di vita. Ricordo le 10 ore di blackout quotidiano, ricordo i problemi alla linea telefonica, ricordo l'aumento dei prezzi del pane, le lunghe file alle stazioni di benzina. Quindi, oltre ad un futuro poco chiaro, i libici soffrono anche un presente fatto di tante piccole privazioni dettate appunto dalla crisi politico-militare in corso. Sì. E sempre a proposito di percezioni, io sono stato in Libia una volta sola, era il 2011, ed ero a seguito di ribelli che da Bengasi si muovevano verso Misurata, poi verso Tripoli, però ricordo molto bene quelle scene di giubilo, quei ringraziamenti a Berlusconi, a Sarkozy, perché l'Europa li stava salvando dal regime di Gheddafi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso l'Europa come vista? I commercianti, la società civile aspira a un aiuto europeo, ha fiducia in un qualche intervento europeo, o c'è disillusione anche da questo lato del Mediterraneo, verso questo lato del Mediterraneo? Io direi che in qualche modo l'Italia è la grande sconfitta in questa crisi libica. In che senso? L'Italia ha perso una grande opportunità. Io non sono un politico, quindi non sta a me definire una linea di governo, una linea estera. Dopodiché ricordo subito dopo la rivoluzione tutti guardavano in Libia verso l'Italia come mediatore per, come dire, traghettare il paese post-rivoluzionario verso una democrazia. Sì. Invece oggi l'Italia non è più vista come il l'interlocutore principale. In realtà anche la Libia sente di non avere più interlocutori. Come dicevo prima, c'è una grande speranza verso il dialogo a guida Nazioni Unite, ma per un unico motivo, perché non c'è una seconda via. Sì. Cioè, la soluzione militare chiaramente non è percorribile perché comunque il paese è armato fino ai denti, la soluzione diplomatica interna è anche una strada che ha un vicolo cieco, perché appunto tra le due fazioni rivali, ossia le autorità a Tripoli e le autorità di base a Tobruk, c'è uno scontro frontale sul potere legislativo e su quello esecutivo, ossia chi appunto potrà governare il paese fino alla Costituzione, perché nel frattempo il grande latitante è l'assemblea costituente di base, sempre nell'est del paese, nella città di Baida, ma è in realtà chi potrebbe fare la differenza in questa fase delicatissima potrebbe essere proprio l'assemblea costituente, che appunto da circa 2 anni avrebbe dovuto mettere a referendum la Costituzione, però appunto anche l'ultimo appuntamento, quello del dicembre scorso, è stato saltato dall'assemblea, nel senso che non è stata sottoposta alcuna costituzione al voto cittadino, al voto popolare, e anche lì voglio dire, il processo costituzionale è anche un po' in un impasse difficile da superare. Come è stato detto tempo addietro, oramai quasi non si parla più della Costituzione, la minoranza culturale dei berberi, degli Amazigh, ha boicottato le elezioni per l'Assemblea Costituzionale, chiedendo appunto la modifica del sistema di voto all'interno dell'Assemblea, questo per avere potere di veto rispetto a 5 punti cardine riguardanti l'identità del paese, sì, tipo Repubblica Araba no, Repubblica Libica sì. E via dicendo. Sì. Non è stata concessa questa modifica, motivo per cui in realtà anche l'Assemblea Costituente sente di non avere piena legittimità, sì, perché sì, comunque gli manca un pezzo della popolazione. Dopodiché appunto l'Assemblea Costituente è bloccata, e qual è il problema reale in questo momento di cui si discute al tavolo dei negoziati? Nancy, stai lì, il problema reale me lo dici subito dopo l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Stiamo cercando di tratteggiare il puzzle o il caos, chiamatelo come volete, il caos libico. Ci sta aiutando Nancy Porsia, giornalista freelance di ritorno dalla Libia, dove trascorre buona parte dell'anno, esperta del paese. Nancy, ti ho interrotto, c'era l'informazione finanziaria, stavi raccontando, stavi dicendo qual è il nodo cruciale alla fine. Il nodo cruciale di cui si discute al tavolo dei negoziati, o meglio, direi quasi a sentire le parole dell'inviato speciale Bernardin Leon sotto il tavolo, il ruolo del generale Khalifa Haftar, che, come ricordavo questa mattina, è un ex generale gheddafiano, colui che ha guidato le truppe libiche nella guerra in Chad. E poi, come dire, dopo aver defezionato, riparato negli Stati Uniti per circa 20 anni, Haftar è ricomparso sulla scena libica durante la rivoluzione del 2011. Come dire, per circa 2 anni ha cercato un ruolo, un incarico ufficiale che non gli è stato concesso per via del, no, del bilanciamento dei poteri est-ovest. Dopodiché si è riciclato come paladino libico contro i fondamentalisti. Ci ha provato inizialmente nell'ovest da Zintan, ha fallito perché nessuno gli ha dato credito. Anche all'epoca Zeidan, colui che oggi lo osanna come uomo forte della Libia, in realtà parlò quasi Zeidan, disse che Haftar rischiava il carcere perché minava la sicurezza nazionale, dicendo che voleva creare una struttura parastatale. Qualche mese dopo, ossia più un anno e mezzo fa quasi, a maggio del 2014, ha avviato la sua operazione Karama, Dignità, sì, contro i fondamentalisti a Bengasi, che è in qualche modo la seconda città più importante della Libia, più grande della Libia. Dopodiché è un po' la città martire del post-rivoluzione libico, perché proprio a Bengasi si sono concentrati i movimenti più estremisti dal punto di vista religioso. In realtà Bengasi in sé non ricorda per tradizione grandi movimenti fondamentalisti. A Bengasi si sono riversati i fondamentalisti della città poco più a nord, della città di Derna, che sì, è da sempre considerata storica, la roccaforte all'inizio, come dire, in passato del movimento Al-Qaeda, e nel passaggio a cui stiamo assistendo su scala internazionale, o almeno sullo scacchiere medio orientale e nordafricano, al passaggio appunto da Al-Qaeda, sì, a ISIS, a Stato Islamico. Sì. Grazie Nancy Porsia, precisissima fotografia di cui ti ringraziamo, e ti diamo appuntamento nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, perché mi sa che torneremo certamente a parlare di Libia. Grazie Nancy, giornalista freelance, esperta del paese, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Proseguiamo nell'analisi del caos, o del puzzle, se volete chiamarlo così, libico. Ci soccorre Arturo Varvelli, ricercatore di ISPI, esperto di Libia e anche responsabile del programma sul terrorismo per l'Istituto per gli Studi per la Politica Internazionale. Arturo Varvelli, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a voi. Allora, prima domanda è, Nancy Porsia, immagino l'abbia sentita, stava dicendo uno dei nodi fondamentali è questo controverso generale Haftar. E gli altri nodi sul tavolo di Ginevra, che so che lei sta seguendo con particolare attenzione? Sì, certamente il ruolo del generale Haftar è discusso, perché facendo parte ufficialmente, essendo responsabile delle forze armate del governo libico riconosciuto a livello internazionale, lui automaticamente, con il riconoscimento di un unico governo, assumerebbe o resterebbe su questo incarico, e naturalmente questo non viene tollerato da chi gli ha fatto la guerra fino a 10 minuti prima. Questo è però solo uno dei punti, io penso che sia uno di quelli principali. L'altro principale è quello relativo al ruolo del Parlamento di Tripoli. Tripoli cesserà di esistere, dovrebbe cessare di esistere un Parlamento, e alcune bozze prevedevano in effetti la cessazione del secondo parlamento, perché ci sarebbe quello di Tobruk riconosciuto ufficialmente, poi sì. Ci sarebbe quello di Tripoli. Sì. Il problema è che incarico dare a questo parlamento, deve un incarico puramente, diciamo, rappresentativo consultativo, oppure comunque consentirgli di avere ad esempio un potere di veto o avere un potere di qualche tipo sulla nomina del primo ministro. E alcune bozze variano molto. Alcune bozze preparate dalle Nazioni Unite e Bernardino León variano molto su questo punto, quindi è molto facile pensare che questo sia un punto critico, e penso che qualche concessione debba essere fatta al Parlamento di Tripoli, soprattutto se lo si vuole convincere a prendere parte alle trattative. Il governo di Tripoli si aspetta, il Parlamento di Tripoli si aspetta di fatto qualche concessione da questo punto di vista. Sì, sì. Fra l'altro, leggendo un paio di interviste che sono uscite su Al Jazeera, che ha realizzato Francesca Mannocchi, che è un'altra giornalista italiana, il leader Khalifa Al-Ghuel da Tripoli dice, sottolinea che il suo governo controlla l'80% del paese, quindi dice: con me dovete fare i conti. Dall'altra parte si dice: attenzione, perché se fallisce questo dialogo gli esiti sarebbero disastrosi. Si ha la sensazione di un faccia a faccia molto duro, dove gli spazi per le concessioni siano molto molto pochi, però poco si parla di un terzo incomodo, che è la presenza di ISIS, no? Come terzo o quarto attore dello scacchiere libico, perché volendo potremmo mettere anche Misurata come grande chiave di violino, no, di questa crisi. Però qua c'è un grande buco nero, perché a Ginevra si incontrano i due governi, quello riconosciuto e quello no, però sul terreno la situazione è molto più frammentata. Sì, diciamo che al di là di queste due formazioni, che sono due coalizioni che si sono, come dire, raggrumate attorno a Tripoli e attorno a Tobruk, vi sono delle forze politiche, delle forze localistiche, delle rappresentanze tribali, delle rappresentanze locali, che sono variegate, molto variegate tra di loro, tant'è che è una sorta di semplificazione quella della descrizione della crisi libica con questi due fronti. Quando il primo ministro del governo di Tripoli ci dice che controlla l'80%, naturalmente ci fa una propaganda, siamo sotto la sua propaganda. Ci vuole rassicurare, vuole prendere peso. Vuole prendere peso, non è così. Purtroppo sarebbe bello che controllasse l'80% del territorio. In realtà il territorio è frammentato ed è controllato da queste bande armate, queste famose milizie di cui parliamo ormai da 2 o 3 anni, che in realtà sono i veri detentori del potere in Libia, e lo sono nella loro frammentarietà, e anche ad esempio il fronte islamista radicale è frammentato, perché c'è una presenza di ISIS, c'è stata una presenza di ISIS molto forte a Derna. L'anno scorso un battaglione, questo battaglione al-Battar, composto di 300 uomini, è tornato dalla Siria e dall'Iraq, dove aveva combattuto. Sì. E si è, diciamo, coalizzato con alcuni giovani locali simpatizzanti pro-ISIS, e hanno di fatto preso la città di Derna. Però questo non è stato accettato da altre milizie radicali, sempre jihadisti, quindi sì. Anche descrivere il mondo jihadista come un'unità in questo momento è una menzogna, è una falsità. Sì. E tant'è che ci sono stati violenti scontri e la città di Derna è stata rovesciata. C'è anche la situazione a Sirte, dove c'è dell'opportunismo politico da parte ad esempio della tribù Gheddafi, sì. È originario di Sirte. La tribù Gheddafi ha consentito che i propri giovani andassero a combattere sotto forma di ISIS, prendendo, diciamo, il label, l'etichetta di ISIS, perché la tribù Gheddafi è stata ostracizzata nella nuova sistemazione libica fino adesso, quindi sì. È un panorama molto variegato. Misurata, ad esempio, è una delle speranze perché ha preso parte alle trattative, e sembra che buona parte delle forze politiche di Misurata siano concordi nell'arrivare a un accordo pacifico. Sì. Allora, un quadro sul terreno estremamente frammentato, ce l'ha restituito Nancy Porsi e anche lei, Varvelli, dell'ISPI. In tutto questo quadro però c'è qualcuno che continua a operare, perché l'ENI opera in Libia, perché la Total opera in Libia forse con più fatica di ENI, quindi insomma è vero che la stabilizzazione è ben lontana, però chi fa business poi riesce comunque anche nel grande caos a fare business. Sì, soprattutto questo discorso è relativo alla nostra compagnia petrolifera, alla compagnia petrolifera italiana, l'ENI. L'ENI in realtà è una compagnia che opera in Libia, che opera sui terreni locali, sui contesti locali come un vero attore libico, nel senso che è composto da personale del tutto libico, anche i dirigenti sono in grandissima parte libici, l'ENI in Libia si fa carico della distribuzione dell'energia all'interno del paese, quindi viene percepito essenzialmente come un attore libico, insomma. Come un attore libico, sì. E questo è il segreto in realtà, sì. Al di là del fatto che, come dice il nostro primo ministro, l'ENI sono i nostri servizi segreti. Certo è vero, ma il vero segreto è la capacità di operare a livello locale con personale locale. Certo. E questo ci ha salvaguardato fino adesso. Total ha avuto invece un successo inferiore, come tutte le altre compagnie petrolifere, che sono sempre un po' messe sotto ricatto di chiusura degli impianti da parte di chi li controlla. Sì. Questi ricatti sono naturalmente hanno finalità economiche. Arturo Varvelli, ricercatore ISPI, esperto di Libia, responsabile del programma sul terrorismo dell'istituto. Un'ultima domanda alla quale chiedo uno slogan: quanto ottimista o pessimista, vediamo, è sulla stabilizzazione del paese, che insomma ci sono rilevanti interessi economici, la vicinanza geografica ovviamente porta degli impatti, non pensiamo soltanto all'immigrazione, per carità. Lei cosa dice? Io sono purtroppo uno storico pessimista fin dal 2011, nel senso che ormai la Libia non è più un paese non solo stabile, ma è un paese sull'orlo del fallimento, se non già fallito. E riportare un paese simile, seppur piccolo nella popolazione, ma frammentato come è stato descritto finora, è un lavoro, è un processo molto lungo. Io penso che noi dovremmo confrontarci con un paese instabile nel medio-lungo periodo, quindi in 10-15 anni avremo comunque un paese che avrà un grado di instabilità più o meno importante. Non penso tuttavia che si cadrà in una sorta di conflitto cruento come quello siriano, perché non vi sono le caratteristiche di divisione settaria, sunniti, sciiti ad esempio, che vi sono laggiù. Però sarà molto difficile avere un paese pacificato, stabile e certamente democratico. Allora, con queste fosche previsioni, con queste nubi che si allungano per i prossimi anni, saluto Arturo Varvelli, ricercatore di ISPI, esperto di Libia. Grazie Varvelli, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, il traffico, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, torniamo a Ferguson. Nessun luogo è lontano. Ultima pagina di Nessun luogo è lontano, ma continua ad arrivare SMS sia sul tema libico che su quello dell'immigrazione, che come sempre scatena molto molto interesse. C'è Silvano che dice: bisogna distruggere i camion e gli autobus nel deserto quando viaggiano verso sud senza i clandestini, senza i migranti, correggo. Freghiamoci degli spazi aerei dei paesi e distruggiamo i negrieri. Certamente non è quello il modo, era la stessa proposta quando si disse andiamo a bombardare i barconi, era una proposta assolutamente insensata. Le organizzazioni dei trafficanti migranti possono recuperare barconi, pescherecci, yacht di lusso, camion e autobus in qualsiasi momento, quindi non possiamo pensare di distruggere tutti i barconi, tutti i pescherecci del Nord Africa e nemmeno tutti gli autobus che vengono utilizzati. Bisognerebbe andare a curare i sintomi di questo fenomeno, andare veramente a dare una mano a quei paesi da cui partono i migranti, lo dico senza timore di apparire naif o troppo retorico. Allora, come annunciato, attraversiamo l'oceano, torniamo a Ferguson. Everybody is entitled to their opinion, but they're not entitled to make up their own facts and then to agitate and try to E la voce che sentite è quella di John, il cognome non è dato saperlo, è il capo degli Oath Keepers, i difensori del giuramento, che spiega davanti alle telecamere che lui e la sua milizia, i suoi uomini, sono lì per evitare il caos, indipendentemente dal colore della pelle. Allora, vi abbiamo raccontato cosa è accaduto a Ferguson, siamo in Missouri, un giovane è rimasto in fin di vita, era la celebrazione, l'anniversario, la commemorazione della morte di Michael Brown. A un certo punto, ieri notte però, sono sbucati questi individui con attrezzature, abbigliamento e armi militari, con fucili d'assalto, walkie-talkie, pistole, se andate a spulciare su internet scoprirete che appunto fanno capo a questo gruppo di Lot Keepers, hanno anche un sito, chi sono, perché sono lì, com'è possibile che in uno stato moderno durante delle manifestazioni dove c'è una polizia dello Stato che è preposta a controllare l'ordine, a un certo punto sbuchi una milizia paramilitare con armi lunghe, armi da guerra in pugno e dica: io sono qua per garantire la pace e la Costituzione. Allora, ci soccorrerà in questa analisi Manuela Caiani, che è professore di scienze politiche della Scuola Normale Superiore di Pisa, è esperto sul reclutamento sul web, dei gruppi di estrema destra negli Stati Uniti. Professoressa Caiani, benvenuta a Nessun Luogo è Lontano. Sì, buonasera. Buonasera, la prima domanda è questa: lei conosceva gli Oath Keepers? Sono, che connotazione politica hanno? Ma no, non conoscevo il gruppo in particolare. Rientrano, connotazione politica, rientrano, si possono far rientrare, o una parte almeno di questi del movimento si può far rientrare nella categoria di destra radicale americana, che riguarda quello che vengono chiamati Patriot o Militia Movement o Constitutional Militia Movement, quindi all'interno del vasto milieu di estrema destra, sia americano che europeo, che appunto, come dico sempre quando inizio questi interventi, è un milieu plurale, quindi non abbiamo solamente un tipo di organizzazione di estrema destra o destra radicale, come viene chiamata. Quindi all'interno di questa famiglia plurale, dove ci sono appunto organizzazioni politiche, sportive, culturali, realtà associative, abbiamo questa peculiare categoria, in una appunto ipotetica classificazione americana, che è quella della milizia, movimenti patriottici, che affonda appunto le radici in appunto nella storia americana. Sì. Quindi diciamo non c'è moltissimo da stupirsi, sicuramente un fenomeno di questo tipo non sarebbe pensabile o possibile in Europa. Ecco, sì. Tra professoressa, tra le peculiarità, lo confesso, a me ha colpito questa esibizione di armi da guerra. Vediamo se l'altro ospite di quest'ultima pagina Nessun Luogo Lontano ci soccorre nel comprendere come sia possibile che in uno spazio pubblico aperto si vada in giro con armi da guerra non facendo parte delle forze di sicurezza dello Stato. E che l'ospite è Giacomo Percy Paoli, che è senior analyst a Rand Europa. Dottor Persipali, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità di essere qui. Grazie a lei per l'informazione che spero mi darà e spero che fugherà i miei dubbi. Spero anche di non suonare naif o così poco conoscitore delle dinamiche statunitensi, ma io sono saltato sulla sedia quando ho visto questi invero non giovanissimi, ma muscolarissimi e aggressivissimi, almeno nell'aspetto, personaggi che si sono riversati, non neanche tanti devo dire, per le strade di Ferguson dicendo: tranquilli, tranquilli, ci pensiamo noi. Ma com'è possibile? Allora, innanzitutto bisogna dire che la realtà del possesso civile di armi da fuoco negli Stati Uniti è estremamente complessa, in quanto alle leggi federali, che quindi si applicano, diciamo, a ombrello su tutti gli stati, in realtà poi ogni stato ha delle leggi proprie e dei regolamenti propri. Sì. Questi regolamenti gestiscono tutto, dall'acquisto al possesso fino al possesso, diciamo, in ambiente privato, che al possesso in ambiente pubblico. Sì. E il Missouri, che è lo stato dove si trova Ferguson, per esempio, è uno stato che consente di poter portare e esibire pubblicamente, per cui come le foto che vediamo sui social media, sia pistole che armi con canna lunga. Quelle che lei si è riferito come armi d'assalto, armi da guerra. In realtà bisogna fare una distinzione, perché le armi che sono, anche se sono modelli molto simili a quelle diciamo in dotazione ai militari, comunque negli Stati Uniti quei tipi di armi disponibili per i civili sono sempre semiautomatiche. Okay. Di conseguenza non è possibile effettuare tiri a raffica di nessun tipo, questa diciamo è una restrizione che si applica in tutti gli stati. Il Missouri è uno di quegli stati che consente anche di portare in modo palese armi a canna lunga. Sì. questo, come dire, per noi in Europa, come fra l'altro sottolineava la professoressa Caiani, risulta abbastanza impensabile. Una risposta a spot, si riesce, molto a slogan, perché il tempo ormai siamo in chiusura, dottor Persipaoli. Lei non teme che in una situazione tesa come quella di Ferguson, dove c'è già la polizia che deve garantire l'ordine pubblico, perché è lo Stato che deve garantire l'ordine pubblico, nel momento in cui si ammette la presenza di un civile con un'arma, insomma, c'è un rischio dietro l'angolo, ma molto molto corposo, molto presente. Ma guardi, io nel rispondere a questa domanda mi rifaccio a un'intervista che ha rilasciato il capo della polizia di Ferguson, dove riconosce che probabilmente avere questi tipi di individui che offrono spontaneamente questo servizio di sicurezza, tra l'altro non richiesto, possa sicuramente rappresentare un rischio per un'escalation della violenza anziché un deterrente. Questo è quello che ha detto il capo della polizia, che mi sento in qualche modo di condividere. Sì. Grazie mille a Giacomo Persipaoli, Senior Analyst per RAND Europa. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Beh, e sicuramente, come dire, a livello di opportunismo politico, io non so esattamente quali possono essere gli obiettivi di questi Oath Keepers, questi difensori del giuramento, però il timing della loro comparsa sulla scena di Ferguson qualche sospetto ovviamente lo genera. Manuela Caiani, che insegna scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Pisa e lavora particolarmente sul reclutamento via web dei gruppi di estrema destra negli Stati Uniti. Professoressa Caiani, per quello che lei ha compreso, come dire, l'hashtag Ferguson è diventata un motore centripeto fortissimo per questi personaggi che poi sono sbucati ieri notte sulla scena, cioè il tantam è avvenuto via web, secondo lei? Ma sicuramente internet ha significato negli ultimi anni un grande e un potente strumento per questi gruppi, e non mi riferisco in particolare solamente a gruppi di appunto Patriot o milizia, ma insomma in generale gruppi che si possono appunto definire di destra radicale o comunque sono vicini a questa ideologia. Negli Stati Uniti ha rappresentato un potente strumento, Stati Uniti ed Europa, e questo viene fuori sia da tante ricerche appunto nel mio settore di scienza politica, ma anche da tanti report governativi, dalle varie appunto watchdog organizations, cioè tutte queste organizzazioni democratiche che monitorano in vari paesi l'emergenza, il successo di questi gruppi, perché appunto permette in poco tempo e con pochi mezzi, con poche risorse finanziarie, un'organizzazione collettiva e un'organizzazione di un evento collettivo che appunto, come può essere la protesta appunto dell'associazione ambientalista, può essere la protesta del gruppo, la protesta o comunque insomma l'evento organizzato dal gruppo magari con ideologie più estremiste. Certo. Ecco. Professoressa Caiani, la interrompo perché al 349-238-6666 c'è chi evoca addirittura il Klux Klan, scusate, mi si è torcigliata la lingua. È un paragone, secondo lei, insomma, regge o ci stiamo spingendo un po' troppo oltre? No, ma è regge. Va detto che, come dicevo prima, la destra radicale americana è una destra composta da tanti tipi di gruppi. Il Ku Klux Klan è una categoria. White supremacist, quindi gruppi che sono eminentemente razzisti, è un'altra categoria. E milizia patria, quindi diciamo che a volte queste categorie, questi tipi di gruppi sono contigui, o almeno frange di loro all'interno sono contigui, perché appunto in questo caso questi patrioti, nazionalisti, difensori con armi private che si possono appunto quello che è il loro maggior obiettivo è appunto di credere nelle libertà individuali e nelle responsabilità civili, e si appellano al secondo emendamento della Costituzione americana sulla proprietà e il possesso delle armi, quindi poi per allargamento protestano contro un eccesso di intrusività dello Stato, del governo federale, delle decisioni appunto di gun control. E a volte poi però da qui appunto ci sono anche i gruppi che si ispirano all'ideologia della cospirazione, e quindi poi che altri appunto sono razzisti, quindi diciamo che poi fra questi gruppi c'è una contiguità, ecco, sì, quindi sicuramente il valore razzismo, che appunto è il valore fondante dei vari, esplicitamente fondante dei vari gruppi di Ku Klux Klan negli, sì, Stati Uniti, è un pochino abbracciato talvolta anche da questi altri appunto patriotti. Certo, e, certo, e sicuramente sarà insomma è fonte di preoccupazione. Vedremo cosa diranno ancora, cosa faranno questi Oath Keepers a Ferguson. Noi siamo qua anche per raccontarvi anche questo. Grazie intanto a Manuela Caiani, che insegna scienze politiche alla Normale di Pisa. Buona giornata e buon lavoro, professoressa. Arrivederci, grazie. E allora, siamo in chiusura, titoli di coda velocissimi, via. Grazie quindi a Gianni Rosini, Margherita Ina, Emanuele Brignoli, che hanno confezionato con me questa puntata, Valera Bernardi, che le ha dato musica e ritmo a voi, per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.